vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 10 marzo, il sole in regione sorto alle 6.31 e tramonterà alle 18.06, la luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Micoli. Sono questi anni di crisi per l'acquacoltura in regione che ha visto dimezzate le produzioni di molluschi bivalvi. Variazioni climatiche ed ingressi di specie non locali tra le possibili cause. Ne parliamo nel servizio di apertura, per passare poi al corsivo di Enos Costantini, che analizza come si stia colpevolmente trascurando la terra che, come ogni organismo vivente, deve essere nutrita. Per la rubrica delle normative ci sono novità nel settore veterinario relative al taglio della coda ai maiali di allevamento, mentre per quella dei giardini avremo le anticipazioni sull'appuntamento florovivaistico del prossimo weekend a Villa Manin. Per la storia dell'allevamento bovino in regione siamo ancora fermi al primo dopoguerra nelle zone della montagna friulana, per passare poi al post terremoto e al rifiorire del mercato della grappa. Andamento dei mercati, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio della settimana chiudono la puntata. Pesca e acquacoltura sono da sempre in Friuli Venezia Giulia dei settori strategici, soprattutto per quanto riguarda un mondo della produzione in continua evoluzione. Un recente incontro a Pordenone ha fatto il punto della situazione, una situazione che presenta punti di forza e anche qualche criticità. Ne parliamo oggi con Gaetano Zanutti, che è il coordinatore dell'Associazione Temporanea di Scopo per i molluschi bivalvi, che sono i mitili, le vongole, i fasolari, i canestrelli e le cappesante. Qual è la situazione? Qual è il polso di questo settore? Lo stato di salute del settore non è buonissima. Noi negli ultimi anni abbiamo perso, negli ultimi 4 anni abbiamo perso il 50% della produzione, con delle cause che sono alcune note, altre da indagare. Si va addirittura a parlare di cambiamento climatico. Cosa succede? Ci sono cambiamenti climatici, ci sono modifiche presunte nelle correnti, c'è una diminuzione di nutrienti e di fitoplancton, ci sono degli spostamenti di banchi, ci sono nuovi ingressi di specie non autoctone o quantomeno molto rare nel nostro territorio, che invece in questo momento stanno crescendo a dismisura e che utilizzano lo stesso nutriente dei molluschi che noi utilizziamo a scopi produttivo-commerciali. Ci spieghi meglio cosa comporta il cambiamento climatico sulla vita dei molluschi? Sicuramente uno dei grandi temi è la modifica della temperatura dell'acqua, che potrebbe incidere pesantemente. Sicuramente c'è una modifica dello stato dei fondali, determinati presumibilmente anche qui dalla modifica delle correnti, e soprattutto questo calo di nutrienti che impedisce l'accrescimento del prodotto. Noi, per fare un esempio, abbiamo i mitili della costiera triestina che fanno molta fatica a diventare adulti, diventare prodotto commerciale ed avere polpa adeguata a quelle che sono le richieste del consumatore. In laguna abbiamo le vongole che da un triennio per il loro crescimento sono passate a un quadriennio, abbiamo le vongole in mare che facciamo fatica a individuarle, a trovarle, e presumibilmente la causa è proprio una mancanza di nutrienti. E voi soprattutto siete molto attenti alla comunicazione nei confronti dei consumatori. Stiamo realizzando un progetto in materia di sicurezza alimentare, stiamo elevando quello che è il grado di attenzione analitica, quindi andiamo ad analizzare e a monitorare congiuntamente a quelle che sono le autorità di controllo e, per quel che ci riguarda, gli autocontrolli, tutte le attività che ci sono e le eventuali problematicità. Ed è evidente che il tema principale però rimane sempre quello della comunicazione. Un'attenta comunicazione aiuta i produttori e ci aiuta a crescere, una comunicazione scorretta impedisce al consumatore di apprezzare fino in fondo quelli che sono nostri prodotti, che sono sicuramente dal punto di vista sanitario ma anche del gusto molto elevati e molto apprezzati in tutta Italia, ma direi anche in Europa. Anche la terra, come tutti gli esseri viventi, deve essere alimentata. Non chiede molto, solo sostanza organica, ma a quanto pare non ce ne curiamo più di tanto, come sottolinea in questo corsivo Enos Costantini. Il terreno è un organismo vivente come noi altri. A differenza di noi altri, non è un blocco unico, raramente aggraziato in verità, è semovente, formato da tante cellule. La parte solida del terreno agrario è formata da due punti. 1. Un substrato minerale che fu roccia nei tempi dei tempi. 2. Sostanza organica abbastanza stabile che fu vivente, chiamatela pure humus. 3. Sostanza organica che fu recentemente vivente in via di trasformazione verso la formazione di humus o verso la mineralizzazione. E infine, last but not least, esseri viventi, un inafferrabile brulichio di esseri viventi. Questi possono essere monocellulari come i batteri, che sono milioni di milioni per ogni centimetro cubo, o pluricellulari come gli insetti, gli acari, i funghi senza copricapo, ma con sviluppo tanto chilometrico quanto invisibile, i lombrichi, i farchi, eccetera, eccetera. Il terreno naturale, quello di prati permanenti, boschi, selve, radure, è stato trasformato in terreno agrario da un alieno atterrato dagli alberi pochi anni fa, tutto sommato. Un extracomunitario, anzi un recentissimo migrante di pelle nera che, ancor più recentemente, si è autoproclamato, e sentite l'odore d'incenso, Homo sapiens. Il migrante, stabilizzatosi in villaggi più o meno stabili, pur non sapendo ancora di essere sapiens, ha capito che il terreno agrario, come quello naturale, è un essere vivente e quindi ha bisogno di alimento. Le foglie e la vegetazione erbacea morta di freddo, le deiezioni animali e umane, le spoglie di animali erano il nutrimento. Con l'agricoltura cominciò anche l'allevamento e per 10.000 anni fu il letame, nutrimento sempre troppo scarso, del terreno agrario. I sovesci furono talvolta dei buoni comprimari. Ora, il letame è quasi scomparso, sostituito dagli improvvidi liquami e dai concimi chimici. I concimi chimici non bastano perché sono solo chimici. Un atleta può compiere grandi performance anche mangiando solo merendine, ma non dura a lungo. I tempi del terreno agrario non sono quelli della vita umana, e se gli forniamo solo merendine, cioè solo concimi chimici, non può durare. Uno dei tanti costi che pagheranno le future generazioni. In un tempo privo di etica mi sento di fornire un consiglio etico. Portiamo sostanza organica ai nostri terreni. La sostanza organica, letame e sovesci, ha costruito le nostre civiltà da quando eravamo tutti dei migranti piccoli e neri. In caso contrario, i nostri discendenti porteranno uno dei tanti pesanti fardelli dell'uomo bianco. In una scorsa puntata ci siamo occupati di benessere animale e oggi con Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, riprendiamo il tema con particolare riferimento all'allevamento dei suini. Sì, parliamo oggi di suini in quanto il prossimo 30 marzo c'è una scadenza importante per i nostri allevatori. Il Piano di Azione Nazionale per l'attuazione delle norme minime per la protezione dei suini prevede infatti che entro tale data tutti gli allevatori di maiali provvedano a redigere una scheda di autovalutazione del benessere e a informatizzarla all'interno del sistema Classifarm tramite il veterinario aziendale. Sono esonerati solo gli allevamenti per autoconsumo. E cos'è la Classifarm? È una piattaforma informatica pubblica nella quale confluiscono i dati degli allevamenti provenienti dall'anagrafe zootecnica, gli esiti dei controlli delle ASL, la ricettazione elettronica dei veterinari e altre informazioni. Il sistema prevede anche la partecipazione volontaria degli allevatori in regime di autocontrollo relativamente alle informazioni sul benessere animale e le misure di biosicurezza. Perché questa scadenza ultimativa entro il 30 marzo? Perché gli allevatori che non avranno adempiuto entro tale termine non potranno più allevare suini ai quali è stato praticato il taglio della coda. Questa pratica è ritenuta contraria ai principi del benessere animale, ma è ancora molto diffusa per prevenire che gli animali si mordano tra loro e inneschino infezioni che richiederebbero trattamenti farmacologici. E chi invece sarà stato diligente? Allora, quanti avranno effettuato l'autovalutazione entro i termini, sempre che siano emerse delle carenze sul benessere animale, avranno tempo fino al 30 giugno per presentare ai servizi veterinari un piano di adeguamento che comunque dovrà essere completato entro la fine di quest'anno. Infatti, a partire dal 1 gennaio 2020, tutti gli allevamenti soggetti ad autovalutazione dovranno iniziare ad introdurre suini con la coda integra. Ci sono sanzioni per chi non rispetta la regola? Naturalmente sì, a parte il caso di palesi maltrattamenti che si potrebbero configurare come reato, la legge impone sempre all'allevatore di adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e operare affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili. I trasgressori sono puniti con sanzioni amministrative che vanno da 1.550 a 9.296 euro. C'è poi da dire che il rispetto del benessere animale è parte integrante della cosiddetta condizionalità, ovvero di quei comportamenti che sono il presupposto per poter accedere agli aiuti comunitari, quali i pagamenti diretti o il piano di sviluppo rurale. Anche in questa puntata dedicata ai bovini l'argomento verte sul ripopolamento delle stalle dopo l'armistizio del 18 e precisamente la Carnia e le vallate prealpine. Le bovine alpino-carniche e carnielle, pure a vari livelli di meticciamento, rimaste sul territorio, in relazione a quanto accennato nelle scorse puntate, erano Pouties e Gabelles, tanto che nel 1925 si considerava la razza carniella pressoché scomparsa. I componenti dell'ispettorato zootecnico provinciale, fuggiti al momento dell'invasione, avevano acquistato in Svizzera in Valtellina 1450 vitelle e giovenche di razza brunalpina, di cui 1000 destinate alla Carnia. Nel 1919 furono provati 123 tori di razza bruna nelle Alpi prealpi carniche e nei comuni montani dei mandamenti di Tarcento e Cividale, di cui 94 acquistati in Svizzera e 29 elevati dai tenutari o risparmiati dall'invasione. Agli inizi del 1920, dall'elenco dei tori provati per i mandamenti di Maniago e Spinimbergo, risultarono iscritti 36 tori, di cui 19 bruni svizzeri. Quindi, considerando la difficoltà di reperimento di animali grigio alpini, Pustertaler e Moltaler, Pitzgau dal Veneto, dal Trentino, dalla Pusteria e dalle valli austriache, che avevano i medesimi problemi del Friuli, orientamento quasi forzato, dunque, verso la brunalpina. Nel 1921 si riteneva che il bestiame di razza bruna rappresentasse già più della metà del totale del patrimonio bovino allevato in Carnia, che si era decisamente affermato nella vallata del Tagliamento del Degano. Nel 1926 il regolamento provinciale di applicazione della legge sulle stazioni taurine, che delimitava le aree di allevamento nelle Alpi e Prealpi carniche, favorì ulteriormente il processo di consolidamento della razza brunalpina. E questo a che considerazioni ci porta? Nonostante le iniziative a favore della bruna si moltiplicassero, le discussioni sulla loro reale efficacia erano all'ordine del giorno, ma il muratore affermava che, essendosi resa necessaria l'importazione di una razza, era stato razionale averne scelta una tra quelle più idonee all'allevamento in zone montane e constatava che tutte le latterie della Carnia, nonostante il numero minore di bovine allevate, lavoravano più latte rispetto al periodo prebellico. Oggi Franca Merluzzi, che ci cura la rubrica del giardino, ritorna sull'edizione primaverile della manifestazione florovivaistica nel giardino del Doge Manin, programmata per il prossimo weekend a Villa Manin di Passariano, ovviamente. È il primo appuntamento della stagione, organizzato nella bella cornice della villa e del suo parco. L'evento cade in un momento di grande frenesia per appassionati e giardinieri, sempre alla ricerca di novità per le loro collezioni botaniche. Siamo all'inizio della primavera e il desiderio di piante e fiori diventa, diciamo pure, irrefrenabile. Da tutta Italia ritornano a Villa Manin un centinaio di espositori qualificati che offrono il meglio dei loro cataloghi e la loro esperienza. Il programma prevede incontri e conversazioni dedicate, per esempio, al recupero di vecchie varietà di peri e meli dell'Alto Friuli, alla coltivazione degli agrumi, tra cui il limone caviale, alle proprietà di erbe officinali e aromatiche e molti altri interessanti argomenti e laboratori. I fiori saranno il protagonista non solo negli stand, ma anche nella mostra di opere d'arte provenienti dai musei provinciali di Gorizia, che verrà inaugurata sabato alle ore 11. Al pomeriggio, alle ore 15, verranno presentate le ultime due guide edite dall'ERPAC, l'ente regionale per il patrimonio culturale. Un consiglio: concedetevi un po' di tempo e passeggiate nel parco. Noterete che si presenta particolarmente curato e ordinato. Artefice del recupero è la cooperativa sociale agricola Monte San Pantaleone di Trieste per conto dell'ERPAC. Il progetto ha previsto potature consistenti e l'abbattimento di alcuni alberi, l'eliminazione di infestanti, in particolare dell'invadente bambù. Il risultato più evidente si ha sul lato ovest del parco, entrando dal cancello accanto al ristorante, svoltando a sinistra. Eliminato il folto bambuseto, recuperata l'area ex deposito, ora lo sguardo spazia verso le case vicine e coglie la continuità della muraglia in sassi che chiude e protegge l'intero parco. E i narcisi? Il grande prato dei narcisi sarà in fiore? Chissà. Non tutto il male viene per nuocere, così è successo anche per la grappa che nel post-terremoto del 76 invertì il trend di una crisi che la stava attanagliando, come ci racconta Gabriele Caiazza. Il sisma del 1976 segnò una cesura netta col passato sotto ogni profilo. Ciò nonostante, esso non ebbe la forza reale di cancellare completamente tutte le attestazioni della civiltà rurale di quel vecchio Friuli che rischiò seriamente d'essere spazzato via dalle scosse telluriche, e sotto alcuni aspetti disgraziatamente lo fu. A quella cultura si deve, fra le tante cose, anche un altro dei proverbi strettamente legati alla distillazione delle vinacce, censito da Dino Virgili nel 1972. Vin e sgnape sotto la nape. L'espressione sotto la nape, cioè sotto la cappa, era un tempo impiegata in senso figurato, per intendere intorno al focolare domestico, ovvero sia nell'ambito della casa, come a dire che era considerato pienamente ammissibile che la grappa potesse degnamente affiancare il vino quando ci si ritrovava attorno al focolare e che quel piccolo ambiente a sé stante, più o meno separato dalla cucina e più o meno sporgente dal corpo principale del fabbricato, detto in friulano più propriamente puarte fur di nape o anche puarte fur di focolare, costituiva l'ambientazione perfetta, oggigiorno si direbbe la location ideale, per sorseggiare al calduccio e, perché no, in buona compagnia, un modico quantitativo di acquavite di vinaccia. Ma all'improvviso, dopo avere per così dire taciuto a lungo, fra il 6 maggio e il 15 settembre del 1976 si rifece vivo l'orcolat, per usare il peggiorativo con cui da tempi remoti la tradizione popolare friulana usa definire tale calamità naturale, sorta gigante personificazione dell'energia esplosiva che provoca scossoni e sommovimenti del terreno. Il terremoto provocò molte vittime, danni materiali ingenti e altri effetti negativi piuttosto noti. Ciò nonostante, ebbe anche la positiva, tra virgolette, conseguenza di generare una domanda aggiuntiva di beni, collegati al processo di ricostruzione e di mettere a disposizione dell'iniziativa locale ingenti flussi finanziari, necessari alla ripresa e allo sviluppo. Cosicché funse addirittura da stimolo per l'ulteriore crescita del sistema industriale friulano. In un primo momento i prodotti della distillazione sembrarono non rientrare fra quei particolari beni e quindi, fra fine anni 70 e metà anni 80, iniziò una contrazione di mercato, che parve non doversi arrestare più. Dopo quel momento negativo, invece, non passò molto tempo che per la grappa cominciò un'era davvero felice. Fu così che, superate in un modo o nell'altro le difficili contingenze sismiche e post-sismiche, le distillerie friulane superstiti seppero trasformare la grappa da prodotto povero e rustico in qualcosa di sempre più appetibile e ricercato, grazie anche a bottiglie estremamente eleganti e preziose che racchiudevano distillati delle migliori vinacce. Ed ora con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Andamento ancora in ribasso venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,50 e 16,70 euro al quintale IVA esclusa, il frumento buono mercantile tra 19,90 20 e 20, l'orzo tra 19,50 e 20 euro e la soia tra 32,50 e 33 euro. Rispetto a un anno fa il prezzo del mais è diminuito di 20 centesimi e quello della soia di 5 euro e 10 il quintale. Scambi fiacchi con discreti affari e prezzi in discesa al mercato ortofrutticolo di Udine, dove in serata gentile la lattuga Trocadero vengono pagate nella media tra 1,50 e 1,60 euro al chilo IVA esclusa, la cicoria tra 0,90 e 1,10, le zucchine e spinaci tra 1,50 e 1,70, la scalola riccia tra 2,60 e 2,70, le melanzane tonde tra 1,50 e 1,60, i pomodori italiani in grappolo tra 1,80 e 2 euro, i finocchi tra 1,50 e 1,80, il radicchio rosso tondo tra 0,80 e 1 euro, quello di Treviso extra tra 3 e 3,50, i peperoni gialli e rossi tra 2,30 e 2,50, i cavoli tra 0,90 e 1,20, i kiwi tra 1,70 e 2 euro, le clementine tra 0,70 e 1,30 e le arance tarocco tra 0,70 e 1,40. Nel settore della pesca, in questo periodo, causa l'acqua gelata e sbalzi di temperatura, i prezzi si rilevano sostenuti. Pertanto, i branzini, in piccoli, medi e grandi, sono quotati tra 20 e 35 euro al chilo al netto dell'IVA. Le sogliole tra 7 e 24, i rombi a 35 il chilo, i cefali da 2 a 5, i calamari e calamaretti da 18 a 28, le canoce da 7 a 17, le seppie da 8 a 13, i moscardini da 6 a 14, le capesante da 10 a 12 e i merluzzi a 8 euro il chilo. Infine, prezzi in discesa anche nel comparto degli avicunicoli, con i polli a terra pagati tra 0,93 e 0,95 euro il chilo, i tacchini maschi tra 1,30 e 1,32, le faraone e le anatre tra 2,30 e 2,34, i conigli oltre 2 kg e mezzo quotati dal CUM di Verona tra 1,94 e 2 euro. E con il previsore dell'ARPA Osmer Arturo Puccillo, cosa ci riserverà il tempo nella settimana entrante? Le temperature miti degli ultimi giorni sembrerebbero avere le ore contate. D'altronde, pur essendo già entrate nella primavera meteorologica, le temperature sono state ben sopra la media fino adesso. Domani il flusso atlantico occidentale umido si orienterà da nord e favorirà il passaggio di un moderato fronte freddo. A parte qualche possibile rovescio o temporale su pianura e costa, avremo venti più freddi da nord o nord-est, che porteranno, entro sera, schiarite e un deciso calo termico. Martedì, quindi, prevarrà il flusso settentrionale di aria secca e le temperature saranno nuovamente invernali, almeno di prima mattina, quando si verificheranno gelate in pianura, oltre che naturalmente in montagna. Mercoledì potrebbe arrivare un nuovo moderato fronte atlantico, accompagnato da aria umida, con qualche pioggia e qualche debole nevicata sui 500-800 metri in montagna. Giovedì avremo un nuovo miglioramento, con temperature però stazionali. Nel prossimo fine settimana seguiteranno ad affluire correnti atlantiche, progressivamente più miti, possibile anticamera ad un nuovo fronte, domenica prossima, che naturalmente andrà riconfermato. E per ulteriore e più precise informazioni vi invitiamo quindi a seguire gli aggiornamenti dell'Osmer ARPA sul web, sui social network e naturalmente sui programmi radiofonici e televisivi della RAI regionale. Alla prossima! Termina qui la puntata odierna. Vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano della settimana: fregul di maraves e laviarte apolee, ovvero c'è poco da meravigliarsi se la primavera mette polloni germoglia. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato?